sono l'impugnatura pesante. E a me l'avvitatore invece mi serve per quando faccio i mobiletti, metto le viti, capito, dico il lavoretto lo stesso. KK, ma che è un trapano del cavolo, che è un trapano però, che ha la sua percussione, diciamo dai 500 watt in più, lo puoi usare per forare muro, eccetera. L'avvitatore può andare bene se devi forare, devi fare piccoli fori in metallo, e poi per il resto sì, lo puoi usare come trapano di buca del legno, per piccoli fori, e soprattutto con l'avvitatore. Per il resto, un trapano elettrico, anche del cavo, da 500 watt, funziona da trapano, capito? Non da avvitatore che dovrebbe, tutto dovrebbe, poi alla fine ce l'hai in mano e non fai nulla. Il mio, quando ho messo l'antenna, ha fatto i buchi da 14 col mio. Lo penso anche io già. Ho esattamente 5 confezioni di inserti, di ogni carità che ne è. Trapano, avvitatore o anche elettrico? Io me devo comprare le chiavi a tubo. A tubo perché non ne ho. Quelle che mi mancano sono quelle. E c'ho anche quelle. E quelle più buone di inserti c'ho, quella da DeWalt. Quelle sono le migliori, dai. Sono di marca tedesca, queste cose che vedo sono tutte di marca tedesca. E non c'è attrezzatura buona. Riccardino. Cosa c'è, Tonino? Di nuovo la voce ti stava mancando. Schiaccia e poi parla dopo qualche secondo. Va bene, adesso aspettate un secondo. Adesso sei andato benissimo, riprendi e via anche tu la tua, dai. Sì, ma ho fatto un tap. Vi stavo ascoltando, ma attrezzatura non ne manca neanche qui, un po' di attrezzatura già ne abbiamo. Riccardo mi fa uno stacco, fa tap. Boh, come mai? Aspetta, può provare a spegnere? Così va meglio, forse? No? Adesso non la fa. Scusate, c'era un altro apparecchio acceso. Babbo stava ascoltando, io sto parlando con questo, Babbo stava ascoltando con l'altro. Tu pensa già che a mio figlio ha detto, quando arrivo a una certa età, che non ce la faccio più usare queste attrezzature, te le regalo tutte a te. Sai cosa mi ha risposto? E cosa mi devo prendere? Un tiro per prendere la roba tua. E tu Tonino, ah? Un po' di mania pediatrice, appena appena. Allora, ti spiego, a me piace questa roba qua, averla sempre più. Tempo fa, quando mi c'ho qualche lavoretto, anziché andare a casa a prendere l'attrezzo, andavo e compravo un uovo. Per esempio, di pistole silicone avrei una decina, maderine ne avrò 4, segrete alternative ne ho 3, orbitale 2, Rafali 5-6. Ho un casino di roba, sempre a comprare, sempre, per non c'è andare a casa a cercare, perché ho degli armeniti in plastica grandi, no? E tutto smistato, un casino, guarda, lo metto in ordine, insomma, non la giocare. Poi c'è questo periodo, il disco, ho fatto una risonanza magnetica per questo motivo. Se guarda non mi riprendo, niente, non so fare piccoli lavori e basta, non più grandi, e sistemare tutto. Ma non è che devi andare a fare dei controlli, no, a questo sentito? Non te la stai controllando questa cosa? Allora, non mi posso operare perché sono cardiopatico, quindi sono da 5-6 anni da questa parte. Cure al nastro, sì, ti passa per 2 anni e poi ti riviene. Niente, ho fatto la risonanza magnetica, so, siccome l'ho fatta 5 anni fa, me l'ho richiesta una nuova, l'ho fatta oggi. Adesso poi lo do al fisioterapista che contatta il professor De Cagliari e usa questa tecnica di fare una lezione alla schiena e mi sistema questo nel disco, così almeno non mi viene più. È da fare, se no sei veramente penalizzato, cioè cavolo, di vita ne abbiamo una, meno tempo fa con questi problemi meglio è, questo è il mio punto di vista. Cioè, ma sarà un palliativo questa che dicono con l'elezione che ti ripicciolisce l'ernia? Dice che è un palliativo questo? Non lo so, sto chiedendo a te, sarà un palliativo, non lo so, funzionerà, no? No, ma riescono a fare cose molto interessanti anche senza fare anestesie chissà come forti, riescono a fare operazioni. L'ultima, tanto per dirtene una, adesso io non lo so a quale tecnologia si sono riferiti e qual è esattamente la tecnologia che utilizzano per fare il tuo tipo di operazione, però a dirtene una, hanno operato un signore alla testa e mentre lo stavano operando lui era sveglio e stavo leggendo, figurati. Guarda, lo stesso problema mio ce l'ha mio cugino, l'hanno maciullato sia a Sassari che a Cagliari, alla fine è andato fuori, non so se a Monza, e gli hanno detto ok che ti ha ridotto queste condizioni, si usavano 50 anni fa. Allora, Sassa volevano operarmi, tagliarmi un pezzo di osso e mettere una placca al titanio. Oggi tutta la buona in cavo di una placca al titanio, perché sapevo già di mio cugino l'hanno rovinato con la placca al titanio. Io ce l'ho proprio fotoschiena dove passa nel rossatico, è quello che mi fa male. E io quando andavo all'ospedale mi facevo anche la morfina, non mi passava, guarda. Ho fatto una cinquantina di iniezioni, tant'è vero che io ho la gamba destra che non ho molta sensibilità, l'ho persa. E quindi mi devo riprendere. KK, allora periodo di riposo e di informazione. Informati bene, ma bene bene, segui un attimino, cerca di capire se ti devi spostare, magari anche dalla Sardegna. Per esempio, in Sardegna abbiamo Caputo che lavora nella medicina sportiva, è praticamente chirurgo della maggior parte dei motocrossisti italiani, senza contare anche il 12 volte campione del mondo, fate un po' di conti. Al figlio della mia compagna siamo andati, gli abbiamo fatto fare l'operazione, gli ha fatto il menisco ai crociati con una tecnologia particolare, eccetera, eccetera. Il ragazzo dopo 20 giorni si stava allenando in moto, pensa un pochino, cioè abbiamo delle piccole eccellenze, tu devi beccare l'eccellenza giusta, quella che nel tuo problema è leader in assoluto, che ne fanno 10 al giorno. Una volta che becchi il team organizzato che fa quel tipo di operazione in questa maniera qua, sei a posto. Però riuscire a trovare, riuscire a capire a volte è un po' lungo, capito? Gaffa. Lo so, io non conosco nessuno, quindi cercherò di aggiornarmi sempre di più delle persone che in cui sanno qualcosa, conosco qualche personaggio che è di questi all'avanguardia di fare questo. Allora io non mi posso operare, quindi, perché sono cardiopatico, ripeto, e non mi posso fare estesia, sennò a questo momento ho già operato, guarda, ma non qua, giustamente deve essere andato fuori. E durante il lavoro, credimi Fabio, io ho sofferto parecchio, resistevo per non andare in malattia. E purtroppo anche il mio collega mi vedeva, ma che non va se va, e c'è in casa. E sempre ti fa la cura, poi ritorno a lavorare, punto in partenza. E adesso sono causa forza coronavirus, questo cavolo di epidemia che c'è, devo rimanere 2 mesi a casa, tipo quarantena, che devo fare, perché il medico del dottore di lavoro ha detto che sono soggetto, diciamo, a beccarmi questa malattia, non voglio rischiare, e allora io ogni anno faccio le visite, giustamente anche per il cuore, e quest'anno purtroppo ammazzo non ho potuto fare, perché già lo sai, per il coronavirus, quindi automaticamente, non avendo un esito positivo, come ogni anno, che ho dovuto dal 2015, non si fidano. Allora io perché ho chiesto quest'altra elettrocardiogramma giù a Nuoro, che è la Cagliari di Nuoro, quindi poi per avere questo benedetto fuori dovrei lavorare, perché io a stare 2 mesi in casa mi rompo le palle, tutto qua. Certo Tony, la vita, cioè, ti deve dare tutte le opportunità e i percorsi che deve avere, quando si incerta il meccanismo per tutti, per chiunque. Io non ti dico la mia situazione, ma cioè, sono praticamente carcerato da un anno e una settimana, che non ho più la mia vita, non sono più nel mio ambiente, non ho più i miei clienti, non ho più la mia casa, e anche se fisicamente non ho niente, anche se non c'è niente di scritto, anche se non è un datore di lavoro che mi ha fermato, una legge eccetera, non è il mio percorso, capito? Perciò ogni volta che accade che per un motivo qualsiasi il percorso naturale della tua vita si incerti, è logico che non ti trovi a tuo agio e che dovresti trovare una condizione mentale tale per cui puoi pensare di essere in ferie e sperare di informarti per togliere questo problemino della schiena, così niente lavoro, adesso tra pochino e la vita sempre sul percorso e continui a godertela come sai. Scusate amici, vi rilancio subito. Ecco perché ho fatto questa risonanza magnetica al centro benessere del Platanola stasera, 150 euro, ma non me ne frega niente i soldi. Non ho problemi perché sono un tipo per la salute e non guardo niente io questo. Sia per la salute sia che per il mangiare, l'ho sempre detto. Poi per i viti che mi prendo di comprarmi questo e quell'altro perché mi piace me ne compro tutto qua. Avanti Gianni, scusa per il big pong. Ehi, non c'è nessun problema, dai. Certo mi sono addormentato. No, è vero. Scherzo. E va bene, ecco. Già si troverà il rimedio. Anche a me il medico del lavoro mi ha rovinato praticamente, ha detto che non ero più in grado di lavorare dopo che ho avuto questa operazione alla gamba, e c'ho l'oxantrosi a tutte e due le gambe, non solo una. In più sono diabetico, eccetera, eccetera, e mi ha praticamente detto che non potevo più lavorare, che oltre la... Oh, sono rientrato Fabio. La vita, non potevo fare lavori anche inferiori perché non ce n'erano adatti a me inferiori, capito? Quindi praticamente io sono andato in malattia e ho finito tutto il comparto di malattia, tutte le ferie, tutti i riposi e adesso sono incasinato. Sono rientrato. E ripetono, vabbè. Chi c'è poi? Fabio, Gianni, io e Riccardino. E oggi la giornata di telefonata, guarda una giuria, c'è venuta una dietro l'altra. Ok, Riccardino c'è, aspetta, hai parlato in due. Cos'è tu, Riccardo? Eia, ciao Robert. Vabbè, già ci siamo salutati anche prima. Dai. Ok, sempre educato Riccardino, come educazione numero uno. Sei una persona speciale, dai. Le abbiamo fatto da la nostra mascotte, dai, che sta diventando un radioamatore provetto, o no? Sì, sì, è così. Certamente che sì. Riccardino ha migliorato la giorno alla notte. Ma a me mi è sempre piaciuto Riccardino da quando l'ho sentito la prima volta, perché è un ragazzo, diciamo, molto piccolo ma anche molto educato, e quello mi ha colpito. No, ma io l'ho conosciuto anche dal vero, vabbè, anche al babbo, il padre di vita lo conoscevo, non perché c'è Riccardino davanti, ma lo posso dire anche io che sono persone squisite, tutta la famiglia persone veramente in gamba. Adesso, non ci esaltare Riccardino, davanti a te il mare. No, ringrazio anche a... Ringrazio a tutti, ringrazio anche a Tonino che una volta mi ha difeso. Io se ho detto le cose giuste quando ci vogliono le dico, non ho piedi sulla lingua, né baracchino e neanche di persona. Gianni mi conosce, quindi. Tonino, non c'è problema, no problema. Anche io ho sempre battagliato per Riccardino, ho sempre detto che aveva diritto di parlare, che aveva la passione, che era da ammirare, ho sempre detto queste cose. Se uno è giovane, giustamente che anche lui deve iniziare, se noi c'è una persona lo mettiamo a tappo, non lo facciamo andare avanti, cioè buonanotte, allora dico la frequenza non è fatta solo per noi, è fatta anche per persone nuove che vogliono iniziare, avere un percorso buono, ottimo, e giustamente se tu non lo fai iniziare stai calpestando tutto, quindi questa generazione va a farsi friggere, nuovi non ci saranno mai più, noi diventiamo vecchi e poi ciccia, la frequenza se ne va a farsi friggere, no, era un ciclo continuo, è così per tutti. Quindi se Riccardino fosse un'altra persona, un Giovanni, un Francesco, un Roberto, è la stessa cosa, io difendo tutte le persone nuove, ma è così, bisogna essere educati, giustamente se uno sbaglia nel parlare, se no questo, sbagliando è così, così, così, capito, lo metto nella vita via, se no buonanotte, questo è il mio concetto, giustamente, io da quando ho iniziato a entrare in frequenza ero casinista, lo dico, non me ne affronti nulla, però poi niente, andare con gli anni ho maturato e quindi mi sono fatto anche la mia idea, dai. Beh certo, gamba gamba, e già ti ho conosciuto casinista, già venivo anche a casa tua se ti ricordi, un po' di volte sono venuto a casa tua. Ma non ti comacco, dimmi no. No, assolutamente no. Perché eravamo amici. Gamba, ok. anche figlio di Cappi, tra l'altro, un'educazione esemplare, quando entra ringrazia sempre, grazie per il mic, è un ragazzo veramente in gamba. Sì, sì, educato anche figlio di Cappi, è bello. È bello vedere questa gente qua a frequenza. Cazzo, a proposito di Casa Ruginito e di Capri 2, Robè, ma abbiamo saputo qualcosa? Io mi sono fermato a ieri, quando c'era tutto quel macello dalla portata, e poi a un certo punto ho chiuso e me ne sono andato. Non so cosa sia successo dopo, se sia tutto andato a buon fine, non lo so. Quando c'era io, a un certo punto, quando non sentivo più a nessuno, me ne sono andato, ho salutato e me ne sono andato. Ascolta, ma tu perché te ne sei andato? Perché ci devi scegliere la portata e fuori? No, diciamo, me ne sono andato per due motivi. Prima di tutto perché era tardi, metto i messaggi, era tardi. Dopodiché, a un certo momento, ho detto, ma cosa mi devo mattare il cervello? Ho detto, basta, ciao, me ne vado, perché io quando c'è un po' di cose che non mi piacciono, è come quando c'è una conversazione o un programma alla TV che non mi va, voglio rivedermi in alto. Sinceramente non me ne frega niente della portante, ripeto, io non, la radio non mi fa né ricco, è uno sfogo per me, un divertimento, se non mi diverto spengo e me ne vado, non per le persone, era un momento che non mi piaceva e me ne sono andato. Sì, anche per me deve essere un momento di pace, di tranquillità, un hobby, un passatempo, dai, dove se va bene puoi anche incontrare gente nuova, diventare amico con altre persone, eccetera, sempre che ci siano persone come si deve, ecco. Assolutamente, poi se si entra sempre con discorsi, cioè con educazione, rispettando le persone, va benissimo. Poi io sono di quelli, molte volte io accendo, vedete, ci sono argomenti che in quel momento non mi piace intromettermi perché non mi interessano oppure non voglio disturbare, l'ho fatto tante volte, ascolto, faccio come dice qualcuno, orecchio di porco, poi più tardi c'è un argomento che mi interessa, ho voglia di inserirmi, mi metto e vado dentro. Però capita tante volte, per dire, c'è Gianni parlando con Tonino con Natalino, stava parlando di fatti loro, di cose, non voglio entrare perché dico li lascio tranquilli, e quello anche secondo me è un segno di rispetto, e qualcuno si era abituato a farlo, però questo. Anche io l'ho fatto l'altro giorno, vi ho sentito a te a Fabio che stavate parlando di radio, di impianti, di questo, dell'altro, di stereo. A me mi appassionano lo stesso, ma non sono un grandissimo intenditore, mi stavo ascoltando e stavo imparando certe cose che non sapevo. Piano piano ho ascoltato, fatto, mi interessava come discorso, però non vi ho voluto interrompere, perché ho visto che eravate presi, poi sono entrato dopo. Sì, sì, capita. Sì, anch'io sento molte volte Roberto parlando di elettronica, e ho solo ascoltato. Giustamente era un questione che mi piaceva, mi ero appoggiato al letto, ti ascoltavo, mi sono messo le cuffie e mi ha riconciliato anche un po' di sonno. Complimenti. Oh, è buono, se vuoi dedicata, ma infatti mi riuso. Sono contento, no? Scusate se mi intrometto, io vi lascio che devo portare tutto dentro, bisogna fare il trasloco. Ciao Gianni, Roberto, Tonino, mi sto dimenticando Fabio, e poi se c'è qualcun altro ci faccio avanti a sfidarmi. Riccardi, allora riprendo io. Riccardi, se hai problemi a fare tanti viaggi a portare la roba dentro, porta qualcosa qua e non c'è problema. No, Riccardi, una carriola te l'hai procurata almeno? Sì, ho seguito i tuoi consigli, mi sono procurato una carriola. Hai fatto bene, bravo. Oh, se vuoi entrare nella carta del Riccardi non vi mettete le mani in testa, cosa c'è di roba? Quella è di più, e ancora di più, perché detto, infatti te le trovi a parte le radio, quelle chiuse normalmente, due o tre quelle che c'hai di lì, e le altre o te le togli o ti fai una vetrina, perché c'ha tanta di quella roba di baracchini, stazioni base, alimentatori, rosmetri, wattmetri, tutto di più ce n'è. Poi ci sono tante antenne, cavi e controcavi. Ieri mi ha fatto vedere un baracchino, non mi ricordo che materia, ricordami, mai visto, dentro la scatola ancora col cielo, fa vedi, degli anni 70, un CB solo FM, ancora lucido, quando tu prendi una cosa lo togli dalla scatola con il cavetto dentro la busta, eccetera. Che materia, Riccardo? Si chiamava praticamente Mustang CB1000, ed è un buon apparecchio. Come ha detto Roberto, fa solo FM. Ah, solo FM. Sì, deve essere per il Made in Japan comunque, per il mercato tedesco, perché prima in Germania c'erano solo le ferme. Ma non lo usi. Ma è nuovo, peccato usarlo già, è nuovo, cioè sai presente tu quando compri un apparecchio, tutto gli dà la scatola, con la busta sua originale, i fili ancora, i cavi dell'alimentazione neanche tolti dentro la bustina, tutto quanto nuovo, proprio lucido, dove attacchi il PL, insomma che non è mai stato messo niente dentro, lucido a specchio. Sì, ce l'ho presente perché da poco ho comprato il 3009 da Eugenio ed era così, ancora in bustante, c'aveva la cosa adesiva sopra. La carta adesiva sopra l'ho staccata io, microfono dentro la bustina, la garanzia e tutto qua. Sì, ma la cosa bella, secondo me è un avanzo di magazzino, e ancora c'è questa parte dell'apparecchio degli anni 70, che ha 50 anni quasi, cioè, non stiamo parlando di per dire quello che tu, è nuovo, l'hai appena acquistato, qualche mese, qualche semestre, ma qua stiamo parlando di un apparecchio che ha 50 anni, ancora trovarne uno ancora lucido, fiammante, come quando esce dal negozio, è uscendo dal negozio, perché ti ripeto, c'ha la bustina col cavo di alimentazione chiusa, dove attacchi il PL dietro, è lucido a specchi. Bene, è scartolato, quindi è rimasto conservato bene, magari c'era il polistirolo anche che l'ha conservato. A pagare pattoni. Beh, quando è conservato bene, dai. E che ci vuoi fare? Andrà bene. No, comunque ripeto, sì, il grande discorso di Roberto, il rispetto è la miglior cosa che ci sia in tutte le cose, l'educazione uno deve imparare, non è che uno nasce già imparato, perché io ero un po' monello prima e poi piano piano ho imparato la mia educazione a me stesso, con andare nel tempo, dal 74, poi. E alla fine, insomma, è giusto che uno deve migliorare, mai peggiorare. Va bene, vabbè. Comunque. Io ho altri 10 minuti, poi me ne vado a nanna. E domani alle 4:30 sono già in terra. Ciao Riccardino, che mi sono dimenticato di salutarlo. Fabio, saluta Riccardino. Ehi, scusa, ciao Riccardino, buon corretto, saluto, ci sentiamo, avanti Fabio. Caffa grazie, infatti aspettavo per salutarlo. Ciao Riccardino, ci sentiamo domani, saluta Babbo, buona trasformazione degli apparecchi, dai. E fatti l'ascoltini tipo ieri sera, tipo l'apparecchietto che mi piace con l'antenna, così ti addormenti in mezzo al QRM. E a proposito Riccardo, portami quello là e così domani lo provo in stazione da me, lo ricevi. Roberto, ti faccio sapere quando lo porto. Comunque girale a tipo a Gianni che non gliel'ho inviato, gliela mando io da del CB1000. Sì, già gliela mando, non ti preoccupare. Ok, signori, anche io adesso stacco le antenne, il microfono e tutto quanto. Vado a nanna perché domani si riprende a lavorare. Allora saluto di nuovo a Riccardino, a Tonino, Fabio, chi c'è? Gianni Doppio Room, non so se ci sia qualcun altro, comunque siete tutti salutati al 100%, sempre una bella discussione, un bel piacere fare queste conversazioni tranquille e rilassanti. Insomma non me l'avete fatto venire, anzi tanto interessante, dai, faccio corretti, ci sentiamo eventualmente domani se coincide. Ciao ciao a tutti. Ciao Robert, buonanotte, buon lavoro per domani, avanti Fabio. Ciao Robert, buonanotte e buon lavoro, ci sentiamo domani, ci aggiorniamo. Avanti Torino per i saluti. Ok, ciao Robert, buon 144 e buon trambacco per domani, ci sentiamo, stammi bene. Anche per me è un piacere, può essere tranquillo, sereno, così va bene, posso un giorno così. Ok, allora Gianni, noi ci teniamo aggiornati per dopo domani, giustamente, no? Con Fabio. Sì, già al limite lo chiamiamo, c'è il numero di telefono, lo chiamiamo a Fabio quando siamo pronti di telefoniamo. Ok, qualche giorno mi fa vedere questo cagnato che c'hai? Cosa? Qualche giorno mi fa vedere il cane che c'hai? Via. Io adoro i cani, io ho due piccoli ma sono due besti, va bene, sono sette amici poverini. Non c'è problema, solo che il mio è un po' cattivello, non dà molta confidenza, devo accarezzarti per far vedere che sei un amico, se no ti si atta addosso. Ma non è che mi sbaciucchiano, ho le musichecce. No, lo sai cosa fa? Dopo che io ti accarezzo il coso, ti fa le feste. Ti scodizzola, ti comincia a saltare, allora si fa oh oh oh. Io sento un po' di scarico, queste cuffie che mi sono messo qua. Fabio, Fabio, facci sognare. Faccio sognare, cosa vi faccio sognare? Sono sogni belli, Allora, sogni più belli sono quelli con la fantasia, già. Non ho capito, fa. Dico, facci sognare, niente incubi, e sogni più belli sono quelli conditi con la fantasia, eh? Ah, ecco. Ma quando sono sogni solo, poi ti svegli tutto sudato. Vabbè, però per sognare cose brutte è meglio sognare cose belle. Quello è vero, senza ombra di dubbio. Io l'altra notte ho sognato specchi, cazzo, specchi è tutto andato. Gente falsa. Che mi volevano prendere lo specchio da casa, a tutti i costi. Me lo volevano portare via, lo specchio. E tu lo vedi qui da capo? E praticamente mi sono risvegliato di soprassalto perché mi sembrava quasi di essere in mezzo al sogno. Poi mi sono riaddormentato e ho di nuovo risognato che è venuta questa persona a prendersi lo specchio. Ma ultimamente hai comprato qualche specchio già? No, era la mia ex moglie che è venuta a prendere. Ah, quelli si trovano anche le mutande. Attenzione. No, ma era solo nel sogno, assolutamente no. Però, boh, non lo so il perché. Ma di solito dicono che il sogno è tutto quello che tu vivi tutta la giornata e ti rimane più impresso. Sì, ma lo specchio non c'entra un cavolo, boh. Forse, boh, non lo so. Vedermi dentro, non lo so, qualcosa del genere. Rispecchiarmi dentro, vedere dentro me stesso, non lo so che cosa voglia dire. Un tentativo di introspezione. Sì, beh, non lo so, però per due volte mi sono addormentato, poi mi sono risvegliato, l'ho sognato di nuovo per due volte, sempre la stessa cosa. Io da ragazzo pensavo sempre di Lucifer che non me l'ho mai sognata. Allora io ho notato una cosa, che quando sogni, quando faccio i sogni succedono davvero le cose, lo sai. Ma diciamo, la vera vita qual è? Nel sogno o in realtà quando siamo svegli? Questo è da appurare. Però io mi sono sognato, per dire, la mia prima ragazza, che ero un bel di anni che non la vedevo, giro l'angolo una mattina, che ci sbattiamo faccia a faccia, siamo diventati tutti due rossi come il peperone. Vediamo che intelligenza avete, tu, Gianni e Fabio. Ditemi una cosa molto immaginaria e impossibile. Molto immaginaria e impossibile? Scappa. Sei pronto a dirti che ho sognato che praticamente stavo mettendo musica all'atrium, però non era l'atrium normale, era l'atrium senza il tetto, l'atrium all'aperto, e ho messo un disco bellissimo, così bello che da DJ ho fatto gli scalini, sono andato a ballarmelo, mentre stavo parlando è arrivato Superman, gli si è messo avanti, però posso già avere la S di Superman, cioè aveva la M di Marlboro, si è tolto il mantello, me l'ha dato ed è volato via. Interpretami questo sogno. No, aspetta, lasciamo perdere i sogni. Io voglio, aspetta, mi spiego meglio. Una cosa che tu vorresti fare è impossibile e immaginaria. È impossibile e immaginaria. Allora, questo ci devo pensare, perché di solito sono molto concentrato. Diciamo che ho molti piedi per terra, perciò ti dico la verità, non ho moltissima fantasia, capito? Però se ci penso qualcosa mi viene. Per me diventare ricco. Lo puoi diventare, è facile. Fai una schiena pazza, vinci un bel idea. Io dico, ho pensato una cosa molto, ma molto impossibile. Non esiste. Eppure sarebbe bello. Puoi avere il futuro, non so, adesso non mi viene. Chissà, un domani costruisco una macchina del futuro, ecco, vedi il futuro. Ma no, questo che dico io, già, è molto, molto, molto strano. Dice la tu. Vedere il mio proprio funerale. Vederti al tuo funerale. Vedermi il mio funerale. Perché pensi queste cose così brutte? E se vedo niente che impieni, ma in me la mazza viene male, non pieni tu, eh? No, Tony, aspetta. Bestiale però, eh? No, ma dice, non sei il primo che l'ha fatto, dice che porta un bel bene. Io, non so se crederci, ma dice che sognare questo funerale porta un bel bene. Io quando ho sognato gente che non c'è più, mi hanno sempre detto, sono persone che vogliono la preghiera. Sono persone che vogliono la preghiera? A dire una preghiera a favore del morto, perché vuol dire che rimangono preghiere, e questo mi hanno sempre insegnato pure. Ah, non lo so, sì, ci sono un sacco di... anche di usanze che riguardano queste cose. Io le persone che ci sono più, quelle che mi stavano nel cuore, tu non ci crederai, ma le penso tutti i giorni, tutti i giorni, capito? Proprio, cioè, hanno continuato a far parte della mia vita, per me sono ancora vive. Vi dico questo, che io non credo alla reincarnazione. No, una volta che muori, si spegne tutto. Vabbè, però cosa vuoi fare? Ci sono alcune cose che ti fanno pensare, cioè i grandi interrogativi del mondo ti portano un po' a pensare che un po' per religione, un po' per logica e un po' per cose che si dicono ma non si fanno, si fanno ma non si dicono, non si dice mai così, insomma tutto un insieme di filosofie, ecco, tutto un insieme di filosofie che un po' di speranza possono anche darla, dai. Ma io dico anche questo, ciò che ci fanno credere a noi, vabbè, sono molte balle, anche la religione sono molte balle. Perché non è vero che un ex comunitario, un senegalese, è nero per il clima, non è vero, cacchio. Perché se un extracomunitario, lo metti qua, diciamo, nel popolo dei bianchi, vuoi far fare 50 generazioni o 100, sempre nero, Gesù ha creato Adamo ed Eva, erano i bianchi, non erano i niti. Poi vanno a dire che ha creato Dio questo e quell'altro, ma altri pianeti no. E piano piano gli extraterrestri, questo e quell'altro, non ne hanno parlato. Il giorno che arriverà qualche extraterrestre sulla Terra, la religione va a farsi friggere, perché così, perché non esiste. Siamo tutti fratelli, ma come tutti fratelli. E infatti vedi, si ammazza come te cani, bah. Già è un discorso piccolino quello che stiamo facendo. Già è lunga la cosa. Però sì, di una cosa sono certo, che tutto questo che stiamo vivendo noi non è nato a caso, cioè il Big Bang è quello e quell'altro, la comparsa dei primi meccanismi monocellulari, poi la simbiosi tra i monocellulari per creare varie cellule, i cambi di temperatura, gli aminoacidi e via dicendo. E poi a un certo punto guardi la tua compagna o un'amica magari, adesso a me è capitato ultimamente, la figlia di una mia amica che è con pancino, no? Te la guardi e dici, cioè, sta creando una vita. Ma dai, se guardi bene il corpo umano, come è fatto, come non è fatto, se guardi un po' la natura, i particolari, le masse oceaniche, le stelle, i magnetismi, tutte queste cose, è chiaro che ci sia una regia che se le muove, capito? Al di là della religione, o degli extraterrestri o di qualsiasi altra cosa, cioè io la persona tra virgolette dotata di relativa intelligenza, capisco che la mia intelligenza non basta, perché c'è qualcosa di più intelligente che ha fatto tutto questo. Guarda che il corpo umano è la macchina più perfetta che esiste, che almeno che noi conosciamo, perché poi non so, sarà un altro popolo molto più intelligente di noi che sa molto più di noi, forse senza di dubbio. Non ci siamo solo noi, tu pensa che ogni stella è un sole, quindi quando un sole va in collisione esplode, non ce la fa più. E allora nasce una supernova, è un nuovo sole praticamente. Quindi ci sono tanti fattori strani, a me il cosmo piace moltissimo, il buchi neri eccetera. E è un discorso molto lungo, Fabio, capito? E non voglio mobilizzare molto perché c'è anche Gianni, solo viene solo veramente, avanti già. No, non mi viene solo, io sto ascoltando. ma ci sono anche le ribellioni della natura, tutte queste cose che stanno succedendo, allagamenti, terremoti, tsunami, un po' tutto, la natura si sta ribellando all'uomo, c'è poco da fare, l'uomo ha creato tanto inquinamento, alla fine poi la natura boom, scoppia. Scusa, ma fondi della terra che è ricca di tutto, minerali, eccetera, togli petrolio, togli il ferro, togli il carbone, e alla fine insomma, che cadere, vabbè, e comincia a sestarsi, e quindi terremoti, tutto questa cosa qua succede per quello. Voglio fare una domanda a Fabio. Eccomi qua. Io sono curioso e vorrei sapere se tu anche tu lo sai, ma penso di no, che non mi sa dare una risposta. Non è che questi pianeti sono tutti quanti rotondi? Se del Big Bang hanno detto che esplosioni di pianeti, meteore, si sbattono con l'altro, si saldano, si formano i pianeti, ma tutti quanti tondi perfetti sono. Ascolta, io un'idea ce l'ho, anche se questo argomento non l'ho approfondito. Ma tu hai già la risposta o voglio un pensiero? Non ho capito. Io un'idea ce l'avrei perché sono tondi, anche se non ho mai approfondito, diciamo, non è una cosa che ho studiato, no? Non ho sentito dire che la Luna è tonda perché c'è un motivo specifico. Ma tu hai già la risposta scientifica, sei curioso di sapere se io lo so o se io ho un'idea diversa dalle altre? No, io ti giuro non lo so, me lo domando sempre, ma non lo so. Quindi, se tu lo sai, accennami qualcosa. Allora, io ti posso dire che stavo mettendo la pentola in camper, no? Praticamente è la riparazione di un sistema di ventilazione. Ho trovato di un motore, ho trovato una ventola di plastica, ho fatto i salti montati per fargli un foro perfettamente al centro, perché avrei voluto che fosse bilanciata. E poi alla fine l'ho incollata, però io so che in fabbrica il discorso è particolare, cioè un po' come l'equilibratura della macchina, hai visto, no? Quando ti fanno l'equilibratura delle gomme o Tony. E cosa ho pensato? Se io ci metto qualcosa che mentre lei gira si stabilizza, si sparge in maniera tale si punta nei posti in cui logicamente è più leggera e perciò per reazione centrifuga succede che va a contropesare dove in realtà non sta pesando, io riesco a equilibrarla. Continui a seguirmi nel discorso. Sì, ma non penso che tutti i pianeti girano, c'è anche da verificare quello. Io penso che all'inizio tutti abbiano avuto modo di girare, perché se tu prendi qualsiasi cosa nello spazio e ce lo tiri, diciamo che non rimane precisamente in quella posizione, se poi le velocità sono elevate e se tutto è frutto di un'esplosione, così come sembra, cioè ogni galassia frutto di un'esplosione, esplosioni contigue, perciò la stabilizzazione magnetica è arrivata dopo un processo di deriva violenta e man mano il tutto si è poi alla fine uniformato magneticamente e da lì il movimento degli astri. Io penso che all'inizio queste palle di fuoco, che fossero palle di fuoco, questo lo dicono, hanno roteato, perché l'unico modo per fare una sfera è ruotarci intorno. Fabio, sappiamo che noi siamo sulla Terra perché c'è una pressione di un bar, cioè un'atmosfera, ecco, perché gira su se stesso e crea questo. È come tu prendi un secchio, metti un po' di acqua, lo giri veloce intorno, l'acqua non ti caderà, e se lo fai girare piano piano cade l'acqua. Ma sappi che nello spazio non c'è niente. Non c'è aria, non c'è vento, non ci sono detriti. Se lo crea, diciamo, il pianeta, girando su se stesso si crea una barriera. Quindi c'è del magnete che fa girare tra l'uno e l'altro. Perché come fai? Questi giri, giri, giri, non si ferma mai. Il Sole poi non ne parliamo. Tu pensa quanto è grande il Sole. È come tutti i nostri pianeti messi insieme, che Giove è enorme. 9 volte il nostro tutto il sistema solare dei pianeti, così è grande il Sole, è una cosa enorme, e le lingue di fuoco sono centinaia di chilometri, e sono esplosioni ogni minuto, e poi i neutrini che manda la tempesta solare sulla Terra, e trapassa anche la persona, però è una piccola energia che non sente niente, non fa niente, è innocua. L'aurora boreale succede anche per questo, per la tempesta solare, penso che lo sai. Comunque ci sono molti misteri, a me piace, rimango anche ore e ore a studiare queste cose qua, leggere, guardare, vedere, perché sono troppo curioso, mi piace troppo. Molte cose non ce le dicono. Poi. È un mistero, tutto un mistero, lo so, non è facile. Gianni, non ti addormentare, io ti vedo me. No, no, non sono addormentato, si ascolta. Io, beh, sono cose che l'uomo ancora forse non ha scoperto del tutto, che sta ancora sperimentando, per cui non ti puoi dare una risposta, sono a volte cose più grandi di lui che non riusciamo a darci una risposta. Magari puoi immaginare che sia così, ma non sei sicuro, capito? Capo. Io credo agli extraterrestri. Ripeto che dico che mi è successa una cosa, ma non l'ero da solo. Ero insieme ai miei parenti, anche insieme a Piero Drago. Allora, siamo saliti sulla San Francesco, ma tantissimo tempo fa, perché dovevamo vedere questa stella cometa che doveva passare. Scrutando il cielo, di notte al buio proprio, ho notato questo puntino rosso, talmente veloce, che neanche un aereo e va così veloce. E poi cosa ha fatto? Perché ho detto no, può essere un aereo. Gli ho fatto notare a Piero, l'ho fatto vedere a mia moglie, insomma. Questo aereo era talmente, questo puntino rosso, veloce, si è fermato di colpo, che nessun aereo si ferma di colpo quando c'è una certa velocità. E poi ha fatto una L, di colpo ha virato e è sparito. Quindi mi fa capire che ci sono altri esseri umani. E avere un mezzo così veloce, sono molto più progrediti di noi. Dicono che 51 che c'è in America, là non puoi passare se non ti sparano a vista, giustamente. È caduto un disco volante, hanno catturato qualche extraterrestre, cerco di studiarselo, eccetera, eccetera. Qualche uno che ci ha lavorato, insomma, se vedete i dossier che io ogni tanto me le guardo su Focus. Quindi ci sono molte cose che non ci dicono a noi. Però ho notato una cosa strana. Strano, questi filmati che fanno vedere degli altri e fruscia. Il caso strano inquadrato in questo laboratorio dove hanno catturato questa nell'area 51 questi extraterrestri, si era appeso il muro, un orologio. Ma io non so se quegli anni ancora esistevano gli orologi al quarzo. Lui sono rimasto perplesso. Chi c'è la cazzata? Può darsi che noi siamo meno evoluti gli americani. Gli americani sono sempre stati più evoluti di noi, magari allora ce l'hanno già da loro. E comunque in ogni caso gli UFO mi hanno filmati, li hanno visti atterrare, scendere dalla scaletta del disco volante, siano filmati camminando, non ci sono proprio filmati. Ma negano sempre. Però ci sono. Ci sono. Sì, quando le vedi le cose non ci credi, però ci sono cose che lo dimostrano. E quella di Cagliari che ha detto che l'hanno rapita i marziani, e l'hanno rapita, l'hanno portata sulla Luna, l'hanno messa incinta ed è dato questo tipo di... fai un coniglio qua. Questo non lo sapevo. Non lo sapevi, che l'hanno presa per matta, tutti quanti. Cioè, in effetti ha fatto un figlio strano, capito? Con le orecchie lunghe e così. Bisogna vedere se quello che sta dicendo sia normale o se sia verità. Dunque Fabio, io ho dedotto una cosa, sarà assurda, sarà vera, non sarà vera, una mia immaginazione. Io penso questo, che delle persone molto molto più progredite di noi hanno preso tante razze di tanti altri pianeti, quelli che assomigliavano a lui, hanno preso neri, hanno preso bianchi, hanno preso cinesi, hanno messo su questo pianeta Terra, hanno massacrato, progreditevi. E ogni tanto vengono a trovarci a vedere come siamo e come siamo, a che punto siamo arrivati. E avevo visto che stiamo distruggendo anche il pianeta, piano piano. Cosa ne pensi Fabio? Potrebbe essere una supposizione immaginaria. Ah, guarda, io... eccomi, io posso dirti che a livello di pensiero, dentro di me, nella mia testolina, credo che ci sono molte possibilità che non siamo soli in questo mondo esteso, questo mondo di galassie, eccetera. Se per riuscire a vedere alcune cose abbiamo il limite della velocità della luce, perché noi vediamo le cose con gli occhi, perciò la luce, perché noi studiamo i fenomeni attraverso i sistemi elettrici, elettronici, radio, radar, poi ci sono i binocoli elettronici, quelli che riproducono le immagini per rifrazione degli elettroni, anche se non hanno lenti ottiche e via dicendo, insomma, quando ci mettiamo a studiare conosciamo poche cose, abbiamo pochi mezzi rispetto a quello che vogliamo scoprire. E io penso che in tutto questo mondo mi sembra strano che siamo soli, capito? E quello senza ombra di dubbio, non siamo soli. Noi vediamo per mezzo di riflesso, e questo lo sappiamo, perché se te ti mettono una camera buia, buio pesto, ti mettono un tavolo con qualcosa sopra, al buio tu non vedi niente, ti mettono una piccola luce, tu vedi, quello è mezzo riflesso, capito? La luce riflette su quell'oggetto, tu lo vedi. Tu pensa che nello spazio sì, è infinito, ogni stella che vedi è un sole, ogni sole avrà i suoi pianeti, e voi con tutti questi miliardi di pianeti non ci sono altri esseri viventi più progrediti di noi? Io penso di sì, dai. Quindi, è inutile che vanno a dire messe tu, giustamente, a un prete ti fai parlare di queste cose qua, lui ti smonta subito, perché ti dice, no, io ho fatto questo, questa, questa, non c'è altro niente, capito? Secondo lui ha bisogno, ma uno piano piano con la mente ci ragiona, lui è obbligato a dire così, perché lui va sulla religione e basta, lui siamo tutti fratelli, io non nasco fratelli niente, a voi. Ma io non so come ti faccio, non ti ricordo di persona, ci siamo visti sicuramente mezzo secolo fa, mezzo no, ma un quarto di secolo fa sicuramente, non mi ricordo come sei, però se devo scegliere tra uno col quale non ho mai parlato neanche in frequenza e te come fratello, io quasi quasi scelgo te, Tony, ti va bene? Ti ringrazio Fabio. Avanti Gianni, Gianni si è settato. Chissà cosa pensi di me, che tipo sarà questo Toyota Kawasaki, di la verità Fabio. No, ti ha fatto sopra Gianni per dire che invece c'è, e tu hai sbagliato perché non l'hai chiamato bene a Gianni, dovevi chiamarlo fratello Gianni. Cappa, fratello Gianni, col bau bau, dove sei? Dimmi sorella Tonia. Le balle che ti sono fiorite, ammazza. Facci un momento di comunione, come è questa te ne sei approcciati, eh Gianni? Oh, stavo messaggiando, un secondo so. Messaggio. Un falcone, eh? Aspetta che mi è sfuggito il passaggio, cos'è detto Tony? Cosa? Cos'è che ha detto che mi è sfuggito il passaggio? Ha detto che un falcone stava messaggiando. Oh Gianni. Oh yeah, yeah. E prima era diverso la frequenza fa. È andata molto, io sono mancato, ho venduto tutto, non voglio più sapere niente, 15 anni, 18, non mi ricordo. Mi sono dedicato a tutt'altra cosa. E andavo a pescare e giocavo a biliardo, sono arrivato a quello che volevo io, due medaglie d'oro. E moto raduni, la moto, e Kawasaki qua, Kawasaki là, insomma stavo girando, e con il PC, computer. E anche quest'anno mi salito il pallino e ci mettiamo un po' tutto su. Non sapevo niente, giuro, niente, neanche un mese ho tutto questo ben di Dio. E se va quello comprato, piacere che l'ho comprato, comprato. Non mi manca nient'altro. Però sì, ci sono un po' di cibi nuovi che non conosco, giustamente. Mi fa piacere conoscerli. Perché diciamo, amici, non è che ce ne siano molti, ce ne sono molti, ma non sono veri amici. Io Fabio ne ho conosciuto persone per interesse. E quindi scartate, messiamo a parte, scartate, eliminate diciamo, perché scartate non le ho mica incartate. Eliminate, fate un giro di amici proprio tappa, pochi ma buoni, così dicono. Gianni è rimasto un carissimo amico, mi ha fatto piacere che da poco l'ho visto dopo tanti anni. E poi sento qualche altra persona che conoscevo da tempo, che non sono mai andato a genio con questa persona, manco al centro del canale perché non me ne frega niente. E niente, altre persone così e basta. Però ripeto, mi fa piacere conoscere persone nuove, perché dicono che trovo un amico, trovo un tesoro, magari. Scappa. No, io cadetto zona ero altrove. Ho capito che non ci sarei comunque arrivato a Sassari, anche se l'ultimo periodo che era a Sassari un po' la frequenza, non dico l'avevo abbandonata, perché comunque sia una mezza radio, una mezza antenna continuata a averla, perché dopo tanti anni di frequenza avevo tanti amici che sono venuti alla frequenza, ho conosciuto tante persone interessanti, purtroppo qualcuno non c'è più pure. Ho trovato l'amore in frequenza, perché andavo con Giovanna, siamo stati insieme per 3 anni, e poi tante cose simpatiche e interessanti. Poi ero fuori zona, ho capito che da Olbia non sei riuscito a parlare con nessuno, ad Olbia praticamente non c'era nessuno, mi sono rimasti un paio di apparecchi, un paio anche rotti in garage, e nel giro di un mese o neanche, nel giro di una settimana ho rispolverato un po' tutto, ho preso un altro apparato anche, ho preso un'antenna, adesso la devo rimettere su, eccetera. La radio è bella quando non è incasinata come ieri, con queste porcate, è bella quando si può cambiare un pensiero, un parere, vedi cosa sugli altri, invece sulla creazione del mondo, sulla religione. O che si parla nello specifico di apparecchiature particolari, Roberto appassionato di elettronica e di audio e a volte ci incasiniamo in qualche discorso, è bello perché senti Riccardino che fa delle domande simpatiche, insomma è bello, la frequenza è bella, anche se non siamo tantissimi adesso nel territorio, insomma intorno a Sassari, secondo me siamo già un mezzo gruppo, e se al posto di farci la guerra magari ci arricchiamo a vicenda, la cosa può tornare a essere interessante, e ora che siamo magari un po' più grandi, un po' più maturi, ci può anche piacere di più. Io la vedo così, Tony. Ma magari sia di nuovo così, me lo auguro anch'io. Perché ripeto, noi qua sulla terra ci siamo di passaggio, oggi ci siamo, domani non ci siamo. Perché farsi la guerra? La frequenza è una cosa che se vuole la usa come la stiamo usando noi, perfetto. Ti rilassi, ecco, devi passare una mezz'oretta, un'oretta, 2 ore, quello che vuoi, vuoi rilassarti, evadere, diciamo, dal caos lavorativo, del traffico, tutto quello che vuoi, rilassi, fai come sia tranquilli, conosci persone o capi, quando vedi che è una persona ti sembra genio, quindi domani ci prendiamo un caffè, ci conosciamo, meglio, detto, ma se lui entra nella mortante, dice, oh, ma mi sembra su chi vuoi, cioè di per io sono cattivo, non me ne faccio una frega niente, però se dovesse capitare che io riesco a scovare chi è che mette la portante, li taglio i mani. Adesso non ti piace spazzolando per i canali, ti blocchi su 10, senti a me a Fabio e poi la portante, un motivo ci sarà, entra e dimmelo, ma non che tu ti nascondi e disturbi il discorso di due persone che si fanno gli affari suoi, là mi dà veramente fastidio, capito? Fa? Capo, ma le persone che riflettono in tutti i problemi caratteriali che ricordo sono nati tra i 3 e i 6 anni, problemi caratteriali, scusate, nascono veramente da piccoli, è che non hanno avuto modo di lavorarci, non hanno avuto voglia o sono rimasti attratti da altre cose della vita che li hanno portati a non curare loro stessi in maniera sana, ecco, mettiamola così. E allora questi problemi poi vengono fuori anche da grandi, cioè si possono anche avere a 30, 50, 70 anni, capito? Perché? Perché si è nati con, si è partiti un po' sotto, giusto per questo. E niente, un po' di gelosia perché magari vedi un corseo carino e tu non sei in grado di tenere un corseo carino. Un po' di gelosia perché vedi un segnale alto, perché vedi una bella radio. Un po' di gelosia perché hai scoperto che lui c'ha un apparecchio che già ti piaceva e tu non sei riuscito a prenderlo. Chissà quali sono veramente i problemi. Io so che comunque sia, anche quando c'era la portante, volendo potevo parlare con tutti, non avevo problemi. E a me la portante non mi ha fatto nessun tipo di danno. Lui si era dovuto comprare 2000 euro di lineare, o ce l'aveva già nell'armadio, o la portava alla cantina, eccetera. Si è dovuto organizzare una direttiva per fare questa cosa, ha dovuto pure chiamare un amico in macchina per simulare il fatto che prima c'era la portante di un tipo e poi c'era la portante di un altro, quindi si è spostato. Tutti i calcoli, i conti, eccetera. Che io con un'antenna fatta a mano, che se ti mando la foto ti metti le mani in testa, e un ricevitore che è un po' poverino che è caduto, gli mancano i tastini, ho chiamato nel giro di 5 secondi, capito? Perciò non c'era tanto di fare queste cose, è proprio stupido e comunque non ha fatto danno a nessuno, può continuare a mettere il portante quanto vuole. A me mi c'entra lo smitter da una parte e mi ci esce lo smitter dall'altra, per intenderci. Sì, io potrei anche sapere ieri che è stata a fare queste importanti così con l'anche pomeriggio che era forte, era portante. Sì, ma un gioco è meno quando dura poco, uno lo fa qualche volta, beh, vabbè, tanto avanti. Ma se lo fa ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno ti romperete le palle come c'era tanto tempo fa. Allora sì, che si usciva in macchina senza dire niente e si cercava il portantista e più di una volta si è trovato. E più di una volta si ha preso colpi, per dirti. E più l'antenna della macchina di qualche persona è stata fatta a nodo morto. Ma adesso, vabbè, se uno fa così, tanto per 5-10 minuti e poi smette, vabbè, non c'è da farsi più di tanto peso, capito? No. Poi, se uno non gli piace il discorso, cambia canale. A me se non mi va niente, non c'è nulla, niente, spiego tutto. Se c'è un consiglio che mi piace, bello tranquillo, ascolto, siamo direttamente. La mattina non entro mai, perché non ho assoluto, anche se sono tutto il giorno in casa. Esco per i fatti miei, faccio, ho tante mille cose da fare, quindi non... Pomeriggio sì, qualche volta entro, qualche volta no, entro la notte, cioè, non sono assiduo, 24 su 24 no, perché il baracchino per me è un piccolo rilassamento e perciò le cose molto più importanti del baracchino. Gli amici, quello che vuoi, sì, ma prima il dovere, poi il piacere, questo ho sempre pensato. E quindi, Gianni, Giovanni, è finito con questi messaggi? Io ogni tanto ne arrivo, ma ce non ne guardo più, dai, non me ne ho fatti nulla. E cosa stavo dicendo? No, no, io non accetto manco quella di 10 minuti, perché mancare di rispetto a chi sta facendo un QSO, sta parlando di una certa determinata cosa e vuole continuare il filo del discorso e magari viene interrotto dalla portante, non è giusto, è mancare di rispetto a chi sta parlando.